Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Sono stati incastrati anche da queste intercettazioni ambientali due presunti assassini del piccolo Cocò Campolongo, 3 anni, del nonno Giuseppe Iannicelli, 52 anni, e della sua compagna marocchina, Ibtissam Tous, di 27. Cosimo Donato, 38 anni, Faustino Campilongo, 39, esponenti dei clan della zona di Sibari, sarebbero tra i responsabili della strage avvenuta il 16 gennaio 2014. L'obiettivo era Giuseppe Iannicelli. Dai dialoghi intercettati sarebbe emerso il debito che i due avevano con la vittima per una fornitura di droga. Una strage che scosse l'Italia perché tra le vittime c'era il piccolo Cocò, ucciso come un boss. I due presunti assassini, già in carcere per tentata estorsione, adesso devono rispondere di un'accusa ben più grave, triplice omicidio e distruzione di cadaveri. Le vittime furono uccise e poi bruciate all'interno dell'auto nelle campagne di Cassano Ionio. Giuseppe Iannicelli sapeva di essere in pericolo e per questo si portava dietro il nipotino che gli era stato affidato dopo che la madre era finita in carcere per droga. Il piccolo era diventato... Ecco, questa è la storia che appassiona questa mattina tutti i quotidiani e dà possibilità di creatività a chi scrive i titoli. Il bimbo usato come scudo dal nonno, il piccolo Cocò, scudo vivente del nonno, spacciatore di droga che si era messo contro il clan degli zingari, molto potente, voleva mettersi in proprio. E pensando di farla franca, girava sempre con la moglie marocchina che aveva sposato per darle la cittadinanza italiana e il nipotino Cocò, la cui madre era dentro per altri reati, quindi se lo portava sempre dietro, un bambino di 3 anni. Detta esaurita la cronaca e quella stringata che avete sentito con il dialogo incomprensibile tra i due killer, Topo e Panzetta erano i nomi d'arte di questi due assassini. Tra l'altro uno era anche mezzo parente di Cocò perché era fidanzato con la figlia dello zio di Cocò, ma è logico in queste piccole realtà molto arcaiche, sono tutti parenti, si conoscono tutti, anche il nonno. Sembra un ragazzino, c'aveva 50 anni, c'è la foto oggi col Kawasaki con la moglie marocchina dietro, nonno per modo di dire, era un ragazzo che chissà perché pensava che portarsi dietro il nipotino l'avrebbe salvato la vita. Si fidava delle persone che l'hanno ucciso, l'ha seguito in quel casolare, è stato fucilato, massacrato lui, la moglie e il nipotino, e gli è stato dato fuoco. E poi gli assassini sono andati in paese a fare le condoglianze alla famiglia, ma puzzavano ancora di benzina, qualcuno dice. E oggi è venuta fuori questo ultimo pezzetto della realtà, un caso che ha commosso anche il Papa. Il Papa parlò sull'orrore del fatto che uccidano un bambino. Ma cambia ben poco, secondo noi, che l'Andrangheta, che è la più grande organizzazione mafiosa, almeno a livello internazionale, che ha un posto privilegiato nello spaccio, nel traffico della cocaina, poi uccida o no anche i bambini. O perlomeno a noi piace ancora avere una visione romantica della malavita organizzata, un codice d'onore, come se potessero esistere delle regole. Beh, su questo ci vogliamo interrogare oggi. E anche la domanda che ci facciamo: perché di Camorra se ne parla tantissimo, bella, spettacolare, strafiga? Da Saviano in poi la Camorra è diventato il nostro affare più importante dal punto di vista della creazione di fiction. Di mafia se ne è parlato molto, il filone è un po' esaurito perché anche la mafia ha esaurito il suo aspetto spettacolare. La 'Ndrangheta invece sembra indicibile. Beh, oggi cercheremo per quanto possibile di dare senso e costrutto a questa indicibilità. 800 24 0024, a tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Ma te come l'ho messo dentro la mandibola? Ah, è stata una soddisfazione sentirlo strillare. Sì. Era tutto legato, cioè credi, era legato così, di dietro tutte le braccia, oltre che le mani legate così, di dietro, era legato pure con le braccia di dietro, così. Ma non lo buttiamo là dentro, abbiamo aperto questa porta e l'abbiamo buttato così. A pezzetti, no? No, a pezzetti, sì. Sano. Era mezzo morto, si può dire, ma delle botte. Mamma mia, come strilla, io non ho preso un cazzo. Loro dicono che rimane qualcosa. Cioè io non ho visto niente. Per me ne è rimasto niente. Vedevo le ossa. Oh, aci io che ho visto scrocchiare la tibia. Questa qua. Aci, lo sai come l'ha scrocchiata il maiale? Ma sai come l'ha scrocchiata? L'ha presa così. Bam! Ho detto c***o no. Gli ha dato 2-3 ciancicate, capito come? Porco Dio, ho detto no, come mangia sto maiale? Questo è un'intercettazione tra due killer dell''Ndrangheta. Uno parla romano, ma di origine calabrese, e si raccontano come hanno ucciso una vittima. Prima l'hanno scrocchiata di botte, poi l'hanno legato con le mani dietro, probabilmente incaprettato, l'hanno buttato in un recinto di maiali. E racconta, come è noto da tutta la letteratura, anche in Hannibal Lecter, parte seconda, c'è una vicenda in cui una delle vittime del cannibale viene proprio buttata in un recinto di maiali, perché si sa che il maiale non lascia nulla. Del maiale non si butta via niente, ma se uno butta una vittima al maiale, il maiale se la sgranocchia tutta. Ho visto la tibia che se la sgranocchiava in due ciancicate. E sentissi come strillava. Vi sorprende che degli esseri umani possano parlare con tanta tranquillità di una cosa così cruenta? Per quanto uno possa essere al di fuori di ogni regola, di ogni legge umana, sembra difficile una tale tranquillità nel descrivere un episodio del genere. Eppure questo fa parte del gioco, fa parte del racconto. Del racconto che però, come abbiamo detto questa mattina, è poco raccontato. Questa mattina tutti si meravigliano, grandi titoli, grande spargimento di lacrime, viene messa in crisi l'immagine più tradizionale del nonnino con il suo nipotino, ma qua non è Heidi col suo nonno, è uno spacciatore di droga di 50 anni, bello, robusto, tatuato, che si porta dietro un bambino perché spera di non essere ammazzato, si porta dietro il nipotino. Ma perché sperava questo? Su cosa fondava anche lui questa sua illusione? Esiste il codice d'onore dell''Ndrangheta? Nicola Gratteri, buongiorno. Buongiorno. Magistrato e scrittore, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, appena pubblicato un libro di cui abbiamo parlato una settimana fa con Antonio Nicaso, Oro Bianco, storie di uomini, traffici e denaro dall'impero della cocaina, Mondadori 2015. Lei si è stupito questa mattina leggendo i titoli del piccolo cocò usato come scudo umano dal nonno? No, non mi sono stupito perché non è una novità. Questo succede spesso, succede sempre nelle guerre, soprattutto quando sono le faide, perché le regole dell''Ndrangheta, il codice dell''Ndrangheta viene sempre meno rispettato nel momento in cui ci sono le faide. Le faide sono le guerre intestine, all'interno dello stesso locale, all'interno della stessa organizzazione, si uccidono tra di loro, certe volte anche tra cugini. Uno dei killer era anche mezzo parente del bambino, certo, sì, quindi... Ma è normale questo, cioè è normale nel senso, non è una novità, avviene ormai da decenni. Faccio questo lavoro da 30 anni e ne ho visti di tutti i colori. Le regole saltano. Il codice dell''Ndrangheta serve a che gli altri lo osservino. Il re non fa corna, cioè il capo locale, quello che sta sopra tutti, non formalmente rispetta le regole, nella sostanza non le rispetta. È al di sopra della legge, che lui stesso fa. Sono gli altri, i sudditi, gli utili idioti, i portatori di acqua al pozzo del capo locale. Ma allora, scusi, Giuseppe Iannicelli si illudeva di essere un boss per il fatto che lui portasse il bambino dietro e pensava che nessuno lo uccidesse? No, non sicuramente non era un boss. Noi stiamo parlando di uno spacciatore di droga, anche uno che vende cocaina a un chilo non è mai un boss. Il boss è quello che la cocaina non la tocca. Il boss è quello che decide l'importazione di 1.000, 2.000, 5.000 chili di cocaina dalla Colombia, Bolivia o Perù. Non è una persona che... Il boss non commette reati. Il boss può uccidere. Uccide quando deve uccidere un altro capo, cioè quantomeno il colpo di grazia deve essere presente il boss, ma in genere il boss non commette reati fine, se li commette non è un boss. Ma allora, scusi, è anche una montatura giornalistica quella che questa mattina è su tutti i titoli, che se lo portava come scudo umano, per puro caso c'aveva il bambino dietro, sapeva benissimo che non l'avrebbe salvato da nulla. Ma certe volte la forza dell'ispirazione porta anche a questo, però non è la novità che l''Ndrangheta uccide bambini, uccide donne. C'è la storia giudiziaria della Calabria, è costellata di donne uccise dall''Ndrangheta, soprattutto nelle faide. Mi ricordo ad esempio Strangio Maria, subito poco prima della faida della strage di Duisburg, era una donna, è stata uccisa davanti casa sua. Quindi non è una novità. Altra cosa, come si spiega lei, Gratteri, che l'Andrangheta non ha ancora ispirato tanta fiction quanto l'abbia ispirata la Camorra, la mafia. Mancano i Saviano o non so, gli Sciascia calabresi, non capisco. Guarda, perché sicuramente sì, perché noi siamo scribacchini, ci mancherebbe altro. No, è che si è incominciato a studiarla tardi. Io il primo libro che ho scritto col professor Nicaso, prima di scrivere Fratelli di Sangue, 10 anni fa, c'erano solo 3-4 libri sull'Andrangheta. E per scrivere Fratelli di Sangue abbiamo impiegato 3 anni e mezzo, perché siamo stati come topi nell'archivio di Stato di Reggio Calabria, negli archivi della Corte d'Appello. Cioè non c'era una letteratura sull'Andrangheta. I grandi libri sono stati scritti da Saverio Strati, da Cora d'Alvario, da Mario Lacava. Però non è entrata ancora nel meccanismo massacrante della fiction. C'è stato fatto un film, ma è finita così. Sì, si è iniziato, c'è qualcosa, perché ancora non è stata digerita, metabolizzata, perché fino a 10 anni fa si pensava in una mafia straccione, col cappello in mano, con la coppola, c'è una mafia rozza, di montagna, di campagna, rispetto a Cosa Nostra, che invece interagiva con parlamentari nazionali. E poi lo stragismo di Cosa Nostra, Riina, quel folle di Riina che ha pensato di dettare l'agenda allo Stato, lo Stato si è concentrato su Cosa Nostra. C'è stato un'altra contingenza, cioè all'inizio degli anni 90, oltre alla crisi di Cosa Nostra, c'era anche un mutamento di usi, consumi e gusti in Italia, grazie alle multinazionali. E proprio all'inizio degli anni 90 c'è stato il boom, la crescita della richiesta di cocaina. E questo è stato il meccanismo di fortuna rispetto a Andrangheta. Sentiamo un attimo Filo, buongiorno, che parla subito un ascoltatore. Sì, buongiorno Nicoletti. Filo, ovviamente Filomena, perché è l'origine calabrese. Volevo dire questo, che a distanza di poco tempo, insomma, la lettura di questa Andrangheta, anche da parte dei giornalisti, la trovo un po' retriva, nel senso che ancora parlano di codice d'onore. È un lessico che non si addice a quanto questi fanno, cioè il richiamarsi a un codice d'onore di ritegno nell'uccidere un bambino, come se questi non lo potessero, diciamo, bypassare. Ma come si può? Beh, lei ha sentito il dialogo intercettato di come si compiacevano del maiale che sgranocchiava il loro nemico. Bravo, bravo. E allora come mai un giornalista che sempre con le antenne avanti, ancora alla 7 mi fa la cronaca che sono venuti meno al codice di onore ammazzando il povero bambino? Ma come? Siamo qui questa mattina proprio per riportare la realtà nei suoi giusti termini. Ma bravo, ma siamo fuori tempo massimo. Nicoletti, lei è andato oltre, e Gratteri con la sua grande conoscenza l'ha confermato, e quello che io le dico. La notizia è uscita ieri sera, io la tratto stamattina. Ma vogliamo scherzare? Ancora stiamo a fare la favoletta? No, ma io sono qui proprio per sfatare ogni favoletta. Beppe Neri, buongiorno. Gianluca, buongiorno. Neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, nel doppio ruolo, duplice ruolo di neuropsichiatra e calabrese. Dammi una tua lettura però di questa generale confidenza che possa esistere un codice d'onore. Perché nei confronti di un fenomeno criminoso ancora ci stupiamo, perché non è nei canoni di una nostra favola lontana, arcaica, che ci eravamo fatti? Beh, io senza voler nulla assolutamente togliere le competenze del procuratore Gratteri, che ha un'esperienza monumentale in questo, però siccome siamo della stessa generazione, tu, io e Gratteri, e io i miei primi 18 anni di vita li ho vissuti proprio a Reggio Calabria, devo dire che i criteri sono totalmente cambiati. Cioè le persone, tra virgolette, di rispetto degli anni 50 e 60 facevano cose diverse, avevano in qualche modo a maniera loro delle regole e si muovevano in un contesto diverso. Oggi è tutta un'altra cosa, e poi mi permetterei anche di considerare, ma questo forse è un errore mio, mi correggerà il procuratore Gratteri, che quello che succede in Aspromonte, nella provincia di Reggio Calabria, è quello che accade nella terra madre, nella sede di origine, nella culla dell'Andrangheta. Se noi andiamo alle falde del Pollino, Cassano allo Ionio sta molto più vicino alla Lucania, nell'alto nord-est della Calabria, che non alla regione dell'Aspromonte, i criteri, le modalità di aggregazione della malavita sono diverse, quindi avrei anche qualche perplessità nel chiamare 'ndrangheta quella forma di delinquenza con lo spaccio di droga. Sul resto sono perfettamente d'accordo. Sapevo che non mi avrebbe deluso Beppe Neri. Ci sentiamo solo tra un istante, devo dare una pausa, perché riprendiamo l'argomento, è interessante. Un calabrese dice: addirittura la superficialità generale nel trattare giornalisticamente questi fenomeni non tiene conto del fatto che uno spostamento di una provincia, dalla provincia di Reggio Calabria, dell'Aspromonte, alla provincia di Cosenza, cambia totalmente la vicinanza con altre zone, cambia totalmente anche gli stili. Sentiremo poi, entreremo in questo tema che giudico affascinante, perché quando si ricerca comunque una realtà oggettiva si fa sempre un passo avanti rispetto alle descrizioni emotive. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Preghiamo con Cocò. La preghiera del Papa per condannare la barbarie. Il 26 gennaio 2014 il pontefice dedica l'Angelus a Nicolas Campolongo, il bambino di 3 anni ammazzato 10 giorni prima. Questo accanimento su un bambino così piccolo sembra di non avere precedenti nella storia della criminalità. Attraverso le parole di Francesco il mondo conosce il nome di Cocò, un bimbo vittima. Magari informatelo il Papa quando fa i discorsi, che questo è un uso abbastanza comune. Mi viene una cattiveria da pensare. Oddio, la Chiesa per 3 secoli ha tagliato le palle ai bambini per farli cantare meglio in chiesa. Non era un accanimento quello. Chissà quando di questo chiederanno scusa, assieme alle scuse per bambini rovinati dai preti pedofili, via dicendo. Ma questa è una mia cattiveria. Paolo, buongiorno. Pronto? Sì, Paolo. Sì, pronto, buongiorno. Io volevo, insomma, non mi sento che confermare il concetto appena esposto dal signore che ha parlato prima. Beppe Neri, psichiatra calabrese. Psichiatra calabrese, nel senso che c'è intanto da considerare lo scarto generazionale, cioè quello che diceva giustamente il dottor Gratteri in precedenza, è proprio questo, non esistono più boss, cioè l'idea che ancora la sensazione... Io le parlo oggi, ho 42 anni, quindi la sensazione che oggi ho ancora, vivo ancora della malavita, del malaffare, è quello che ci è dato, il lato romanzesco, che ci è dato ancora dalla filmografia, appunto dai romanzi degli anni però 70 e 80. Beh, sul racconto La Camorra c'è stata un'evoluzione. Se consideriamo la fiction lo strumento dell'epica contemporanea, sappiamo tutto, la nuova lettura, diciamo, della Camorra è quella che vediamo nei telefilm della cosiddetta mafia romana, è quella che abbiamo avuto appunto da una fortunatissima serie sempre di telefilm. Nascono sempre dal genio letterario di addetti ai lavori che riescono, assieme alla loro competenza, avere anche una capacità di racconto. L'uno di questi è proprio Nicola Gratteri. Però per l''ndrangheta ancora non è avvenuto questa sorta di fenomeno che entra nel meccanismo dei cantastori contemporanei. Sì, ci può essere un film, ma una cosa quando è una fiction che va continuamente in replica. Noi vediamo la diversità, il cambiamento rispetto al luogo comune precedente, ma ci viene un altro luogo comune probabilmente. Nicola Gratteri, ricordo, magistrato e scrittore, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria. Ha scritto vari libri, alcuni hanno ispirato anche fortunate rappresentazioni di film. L'ultimo è quello scritto con Antonio Nicaso, Oro Bianco, storie di uomini, traffici e denaro dall'impero della cocaina, Mondadori 2015. Quello che diceva Giuseppe Neri, procuratore Gratteri, di una diversità anche all'interno della stessa regione. Esisterebbe una 'ndrangheta più tradizionale, che è quella legata alla zona dell'Aspromonte, e una più legata magari che guarda un occhio anche altre organizzazioni limitrofe? No, cioè lui ha ragione in parte, nel senso che man mano che noi saliamo la Calabria, dalla provincia di Calabria saliamo a Catanzaro, Crotone, Vippo, abbiamo una controllo minore dell''ndrangheta, cioè mentre la provincia di Reggio Calabria è quasi satura, cioè non c'è paese dove non c'è un locale di 'ndrangheta, non c'è un'organizzazione, in provincia di Cosenza ad esempio o di Crotone è a macchia di leopardo, nel senso che in alcuni paesi ci sono locali di 'ndrangheta, in altri non ci sono, ma dove ci sono le regole sono uguali in tutto il mondo, cioè l''ndrangheta è presente, è l'unica mafia al mondo presente, America del Sud, America Centrale, America del Nord, Australia, Europa, in qualsiasi parte del mondo lei va, trova sempre lo stesso codice, la stessa regola, è come, se posso usare questa espressione, se la McDonald's non mi denuncia, è come la McDonald's, lei in qualsiasi parte va, trova sempre la stessa insegna, col pagliaccio, gli stessi colori, gli stessi panini, stessa cosa è per l''ndrangheta, cioè il professore ha detto prima questo, il dottore ha detto prima questo, cioè in provincia di Cosenza, di Crotone, è giusto, c'è un minore controllo del territorio, ma dove ci sono locali di 'ndrangheta, come esempio Crotone, Cutro, lì c'è le stesse regole che sono a San Luca Platì o a Gioia Tauro o a Rosarno. Il discorso dice un'altra cosa giusta e importante, cioè quella, il soggetto, il nonno, non può essere definito un boss, perché uno che va a vendere cocaina a spaccio vuol dire vendita al dettaglio, ma anche a chili non è un boss, il boss, ripeto, non commette reati fini, al di sopra della bagarra, al di sopra del mercato. Sì, un attimo solo, cioè Mauro deve fare un intervento che secondo me le dà spunto anche per allargare quella che è la sua riflessione. Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi. Il mio intervento, dicevo all'operatore, io lavoro nella sicurezza, che è una parola che dice tante cose, non dice niente. E il territorio purtroppo ha una sua influenza importante, così come sa perfettamente il dottor Gatteri, che è anche quella della macchia di leopardo, ed è verissimo che l''ndrangheta, io telefono dalla Sicilia, esattamente da Catania, che è una zona dove prima aveva e ha ancora adesso una grossa commistione con l''ndrangheta, solo che l''ndrangheta nel tempo si è evoluta anche nella sua forza e ha prevalso quello che era la cosiddetta mafia ed è andata oltre prendendosi tanti di quegli spazi che ha lasciato il vuoto della mancanza dei boss siciliani, allargandosi sia nella parte... Lei perché è così competente, Mauro? Come mai? Ha studiato il problema o fa un lavoro per cui ha le mani in questo tipo di attività? Allora, un insieme di cose, perché dirlo forse avremmo bisogno di No, no, per capire l'interlocutore, perché la vedo molto, molto documentata. Allora, io ho un parente che è nei servizi segreti. Quindi anche se non se ne deve parlare, però se è come tutte le cose, volontariamente o involontariamente se ne parla. E la cosa più brutta che posso sentirmi dire da una persona che al di là di essere parente o meno è quella di sapere che molte volte le forze che operano a nostra difesa non hanno paura, hanno paura di chi... come li chiamate giornalisticamente per semplificare, da chi sta, ripeto la parola, in commistione con organismi malati politici e all'interno stesso delle forze dell'ordine. Cioè, mi spieghi meglio il concetto, non l'ho ben capito. Sì, sono espresso male. Allora, semplifichi, il vero rischio soldi, è diciamo, delle soldi, zone, le zone grigie. I soldi comprano tutto, tutto e tutti. Ognuno, anche se non si vuole, però ha sempre un punto debole, che sia il ricatto della famiglia o sia il fatto che abbia un prezzo. Quindi anche purtroppo uno della forza dell'ordine o qualsiasi persona vicina può essere, pur perché è la legge della mafia nella vecchia interpretazione, che diceva vabbè, quello ha famiglia e allora lo possiamo sempre piegare. E purtroppo non è solo un fatto sociale, è un fatto che anche, proprio perché nella natura umana, può essere portato sempre a proprio vantaggio. Fermo un attimo, Nicola Gratteri, allora, al di là dell'illazione, del sentito dire, di quello che si vede nelle fiction, nei film, esistono dei riscontri oggettivi su questa zona grigia di cui allude l'ascoltatore Mauro, che ha un parente che lavora nei servizi, quindi l'ha saputo dal parente? Ma esistono le commissioni tra mafia, tra 'ndrangheta e politica e uomini dello Stato? No, oggettivamente ci sono stati scontri? Sì, certo, esistite da sempre, esistite ed esiste ancora mentre noi oggi parliamo, e non è solo un fatto di corruzione, punto. È un fatto che va oltre, quindi più che di zona grigia parlerei di persone colluse con la mafia, anche appartenenti alle istituzioni. Questa è la grande difficoltà, il grande problema, perché le mafie non sono un corpo estraneo alla società, le mafie si nutrono del consenso popolare, la mafia si muovono e si evolvono man mano che si muove e si evolve la società, le mafie sono tra di noi. Ma ammazzare un bambino non provoca un dissenso generale comunque, oppure è una cosa che tutti giustificano? No, ammazzare un bambino, questo è un grosso problema per le mafie, ma come diceva il dottore prima, non per forza questa è mafia nel senso tecnico del termine, nel senso vero del termine, e molte volte confondiamo mafia con criminalità organizzata, mentre volte confondiamo mafia con criminalità comune, e quindi attenzione, cioè non perché un fatto omicidiario forte accade in Calabria ed è mafia, accade in Sicilia ed è cosa nostra, non dobbiamo stare attenti a non fare delle insalate, a non mischiare le cose. Il problema della corruttela o della commistione tra mafie e potere politico, potere aristocratico, prima ancora che borghese, cioè, lo abbiamo già in Calabria, non lo possiamo documentare da inizio Novecento. Il problema del voto di scambio è un problema che riguarda anche inizio secolo, quando i primi senatori mandavano delle lettere ai capi mafia per chiedere l'appoggio elettorale. Noi stiamo facendo questa ricerca con un professore Nicasso, che speriamo di poter rendere pubblica. Sarà il prossimo libro, immagino. Sarà il prossimo libro, è la cosa che più ci scandalizza, cioè parlamentari, senatori a cui sono state dedicate vie, piazze, abbiamo trovato i documenti, le pezze d'appoggio dove questi in realtà hanno chiesto l'appoggio elettorale. Ci dica un nome, quello più noto di tutti. No, per adesso no. Giolitti, non so, cosa del genere. Stiamo parlando di Calabria. Calabresi, sì. Adesso ci penso un attimo, diamo un attimo la pausa, poi vedrà che le faccio qualche nome e lei mi dirà di sì. A tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Renzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo solo fare un breve intervento. Secondo me, non ho capito bene, stiamo parlando di 'ndrangheta o stiamo parlando di mancanza di valore dell'andrangheta? Nel senso che secondo me ammazzare un bambino per l'andrangheta è come per noi, cioè lo utilizzava come scudo, perché normalmente qualsiasi persona normale, ammazzare un bambino non è come ammazzare una persona adulta, per cui cioè, è difficile, non pensi che sia semplice. Come quando si dice che una persona fa degli reati abbastanza efferati e va in carcere e deve stare isolata perché potrebbero esserci gli altri detenuti che li fanno, cioè, che si vendicano, la stessa cosa che penso che potrebbe capitare a queste persone se si viene a sapere che hanno ammazzato un bambino così. Ma lei è un esperto, cioè, un esperto di 'ndrangheta, lei, Renzo? No. Io non sono esperto in Italia, sono una persona sinceramente che cerca di vedere le cose come stanno. Secondo me se fosse normale ammazzare un bambino non staremmo qua a parlarne, fondamentalmente. Ma lei ha studiato il fenomeno, conosce diciamo la struttura di questa organizzazione, ha conosciuto, perché le persone che abbiamo al telefono sono persone che hanno dedicato una vita a studiare queste cose, sì, e dicono che è abbastanza, sì. Non è, ognuno può parlare di quello che vuole, ma non è che siamo proprio al bar dello sport. No, ma di fatti però sinceramente dire che l'andrangheta ha cambiato i valori, roba del genere, non so se sia giusto. Se vogliamo parlare dell'andrangheta possiamo parlarne, possiamo analizzare l'andrangheta, però non penso che sia perché abbia ammazzato un bambino che i valori dell'andrangheta sono cambiati, come non sono cambiati quelli della mafia quando hanno fatto Vabbè, ok, Renzo, non è molto tempo, lei sta chiacchierando come si chiacchiera al bar della partita di calcio. Noi stiamo cercando di dare elementi concreti con persone che il fenomeno hanno studiato, sennò anche noi oggi staremo a stracciarsi le vesti. Che orrore, non c'è più religione nemmeno per l'andrangheta che ammazza i bambini, quindi ognuno dice quello che vuole. Nicola Gatteri, è Giovanni Nicotera? Sì, la sento. Dico, è Giovanni Nicotera il politico che lei ha scoperto? No. Non glielo dirò il nome per ora, perché quando poi lo scriveremo... Perché è un padre della patria. Le assicuro che glielo dirò. Beh, verrà qui a parlare del parleremo, sarà la prima trasmissione della quale benissimo, parleremo. È un impegno. Giuseppe Neri, no, resti in ascolto. Giuseppe Neri, ricordo, neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri e anche calabrese. Di tutto quello che hai sentito finora, ci riesci a tracciare un profilo dal punto di vista dell'analisi del profondo rispetto al territorio dell'uomo dell'andrangheta rispetto altre tipologie di malavita organizzata? Tu conosci la terra e conosci le persone. E che sottoscrivo quello che dice Nicola Gratteri. Oggi i veri boss sono laureati alla Bocconi, hanno i figli che sono stati mandati ad Harvard, hanno delle persone che hanno delle posizioni assolutamente di spicco nei loro campi, non sono più con la coppola in testa e l'accento alla cetola qualunque, assolutamente. Primo. Secondo, è talmente profonda la commistione che Gratteri si ricorderà come negli anni 60-70 un importante politico calabrese con un ruolo di rilievo nella provincia di Reggio Calabria, alla sua morte venne quasi imbalsamato alla Mao Zedong in un paese che si chiama Tauria Nova. Chi era? Ti ricordi il nome? In una teca di cristallo, perché venisse adorato dalla popolazione, perché era un personaggio importantissimo. Ed era importantissimo perché la sua posizione politica era sostenuta da chi poteva muovere migliaia di voti. Ma chi era Beppe questo qua? Chi era Beppe? Te lo ricordi? Posto. Beppe, ti ricordi chi era? Ti posso dire che il figlio, perché era una dinastia, il figlio passò alle cronache come presidente di una ASL con il nome di Ciccio Mazzetta. Ah, Ciccio Mazzetta. Queste sono le dinastie, e così fu imbalsamato e messo in una teca di cristallo, come un santo nelle chiese. Più o meno, ma era veramente un santo, perché faceva le grazie e concedeva i miracoli, E guai a chi non era devoto al santo, pagava con la vita la mancata devozione. Gatteri aveva notizia di questa sorta di idolatria del corpo santo di un politico, sì, guardi, colluso. Sì, ma guardi che quando muore un boss, o muore anche un politico che è stato attivo, anche l'andrangheta, i funerali c'erano 30.000 persone. Noi stiamo ancora a parlare di Casa Monica perché c'era l'elicottero. Quando è morto Macri nel 75 a Siderno sono arrivati 5 voli charter dagli Stati Uniti, perché era un uomo di 'ndrangheta che discuteva alla pari con Cosa Nostra americana. Totorina, vestito da prete, veniva in Calabria a incontrare il prete Don Stilo ad Africo, e però di questo la magistratura, le forze dell'ordine e gli scrittori e gli studiosi non si sono accorti, o si sono accorti in pochi ed è stato fatto poco, però l'andrangheta stracciona è stata colpevolmente descritta, perché noi abbiamo documentato come negli anni 70 Cosa Nostra, Provenzano, Totorina venivano in Calabria a discutere con l'andrangheta. Quindi già da allora c'era l'idea che si sarebbe voluta, sarebbe diventato qualcos'altro, quello che noi pensiamo ancora. Ma già di allora esistevano dei locali di 'ndrangheta, delle organizzazioni cloni di quelle della provincia di Reggio Calabria, a Toronto, a Montreal. Gratteri, è talmente interessante che la sigla ci interrompe, riprenderemo presto. Grazie a Nicola Gratteri, grazie a Beppe Neri. Alla prossima.